eri un vestito con le calze nere, dimenticato al mercato delle schiave. In quella stanza c'era il mio respiro, sul tuo silenzio come neve sulla neve. Tu chi sei, che ci fai in me? Tu ci sei, perché lei non c'è. È un brutto sogno, bando la ferita, che lascia il segno come un morso di animale. È la violenza della nostra vita, il tuo singhiozzo disperato sul guanciale. Tu chi sei, che ci fai in me? Asciuga gli occhi tuoi, le tue lacrime. Da dove vieni e dove vai? In questo paradiso di angeli avvoltoi. Da dove vieni e dopo dove andrai? In un mondo che non c'è, dove ieri ho perso lei, dove ognuno è chiuso in sé, e disperatamente adesso tu sei me. Su una mongolfiera, su una bottiglia o una pinna di balena, in qualche modo prenderemo il mare, saremo un nodo come due persone in una. Tu sei me, io sono te, adesso tu sei me, io sono. Nasconde e folla nel via vai, ma è gente sola più.